la vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita ti toglie persone a cui vuoi bene. Nei momenti difficili vedi le persone vere. La vita può farti affrontare situazioni estreme. Nei momenti difficili vedi le persone vere. Potrei prendere e scappare, non tornare come fanno in molti. Togliersi dai giochi è più facile in fin dei conti. Quando affronti certe situazioni ma non le racconti, zero sconti. Ci sono sfide per cui non si è pronti. Quello che ho imparato è che il dolore ci rende più forti. Se hai chi ti sostiene incassi meglio certi colpi. Il coraggio non è non aver paura ma affrontarla. La mente devi aprirla per saper usarla. Parla, parla, parla ma i fatti parlano più forte. La vita non buttarla e le tue carte per sfidare la sorte. Menti sorde non capiranno come vivi. Ma non conta dove parti, conta dove arrivi. Non puoi fermarti qua alla mediocrità. C'è qualcosa oltre, basta guardare un po' più là. Ti accorgerai della grandezza che ti porti dentro. Scopri il mondo quando apprendi che non ci sei tu al suo centro. La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita ti toglie persone a cui vuoi bene. Nei momenti difficili vedi le persone vere. La vita può farti affrontare situazioni estreme. Nei momenti difficili vedi le persone vere. Nei momenti difficili vedi le persone vere. La vita toglie più di quanto riesci a dare. La fatica non sempre raccoglie frutti, ma devi continuare. In salita vai avanti. Guardo il cielo, penso ai cari, non ai santi. Volati come foglie io a guardare. Guardo il cielo, è sempre più scuro. Dentro il gelo, piano piano mi avveleno. Tipo cianuro, quanto duro. Pensando al passato, vivo il presente ma guardando al futuro. Ricordi nitidi in giornate piene. Gli schiaffi fanno bene, sono i baci che lasciano i lividi. Salgono i brividi, chi le tiene ste emozioni vere. Ricordo di scene irripetibili. Io, visioni distorte, non è forte chi picchia più forte, ma chi incassa i colpi meglio. Ehi bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio. La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita ti toglie persone a cui vuoi bene. Nei momenti difficili vedi le persone vere. La vita può farti affrontare situazioni estreme. Nei momenti difficili vedi le persone vere. Nei momenti difficili vedi le persone vere.